Mitte din boss, tu vien de te toc, te faci una foto. Rimă gocosă că sabi futuro, passata se scord. Per omon ce stai tu, e allora stat na poc. E sta vita che corre, tu ce capite cocosa. Stasera rovai, mo dici non mă n'importa. Non ho ver, mo chiedere a me, se l'amore al contrario era morto. Posso ver, ce mă timă de uai pe căi ceva ne sunt de creatură. Noi, ce mă timă fălaină pe nu răspundă la niciună. Doi, ca nu ne mai bațiat, din un zimă gomelat. E ancora la cea fa una canzone pe ta ricordă. Giusta ne mire una fotografie. Ce stai un niente tu sei ancora mia. Ancora non ne trovi parole per te fa parlare. Però tengo a forza da lucare. Mi lena dava di sta bugia. Per te sono solo una fotografia. E si venuta sfogata per cade. Perché si va buona la studio stasera. E ti toccava mentre tu dormiva. E quando ti sciudava ero per scomparire. Come va a fride perché non mi assegna, perché non c'è nemmeno torna a rimane. Tu si allucava e sciudava città, e si arriva faceva calma. Te che non sa che cosa ti dicono, non come stai, sti cose ridicole. Ma ti chiedesse se sei felice quando ci stai tu, non so fai invisibile. Però tu stai con me, fallo tuo posto mi. Vieni qua, più vicino che l'ho io posto mi. E ancora la già fa una canzone. Ancora non ne trovi parole.